con belle lettere. Gli ascolto meglio, non ne avverto il carattere. Tecniche, vorrei sentire come sei. Metti te stesso dentro i versi. Servi contenuti con belle lettere. Gli ascolto meglio, non ne avverto il carattere. Tecniche, vorrei sentire come sei. Metti te stesso dentro i versi. Io resto sotto ma lo sguardo resta in alto. Congelo più dell'Artico se mi concedi un attimo. Nel battito di tempo che conosco e come lo conosco è un fatto distinto. Mi ha scelto e poi dipinto. Lui smazza i colpi in base alla potenza, li lascia morti. E poi li osserva dal suo cielo come gli avvoltoi. Tu cosa vuoi se non si sente quando parli? E stanco della biografia dei vostri singoli tardi. Altri lo fomentano col ghetto che non hanno. Se lo inventano ben bene che Scorsese sembra un pazzo. Nel loro mazzo un due di picche sembra un asso. E sai che bello spazi a me, non fate più un cazzo. Mi sento un pazzo a darvi il mio parere. Ma è meglio dialogare che avere le vostre pare nel sedere. Tramite quelle pere che vi sparate nelle vene. Con la convinzione bromuro sopra la passione. Mi servi contenuti con belle lettere. Li ascolto meglio e non ne avverto il carattere. Tecniche, vorrei sentire come sei, non come vorresti essere. Metti te stesso dentro i versi. Mi servi contenuti con belle lettere. Li ascolto meglio e non ne avverto il carattere. Tecniche, vorrei sentire come sei, non come vorresti essere. Metti te stesso dentro i versi. Conforto. Oggi scendi su di me e ti prendi tutto. Persino i ricordi del mio debutto. Mi lasci perso a terra come un persiano in un labirinto dove cerco. Ma poi mi esalto, da solo mi do una mano. È un modo insolito di provarmi. Mi testo come la cade nei miei giorni. Visioni per argomenti, vendo sti timpani sofferenti. Fiamme che nascono dal ghiaccio per i migliori acquirenti. E comunque vedo denti fare dissing ad altri denti. E nonostante quella mano tutto ciò mi pare vano. Rispetto regole, ma vivi in enigmi. Soluzioni personali, affrontando i propri rischi. Combattendo senza armi e quando fingono di essere calmi. Quando meno te l'aspetti sono pronti ad attaccarti. Nel loro show c'è di tutto, non ciò che sono. Le marionette di un sistema portano in giro il loro coro. È una vettura con una gomma bucata. Se non riesci a dominarla lei ti porta fuori strada. Mi servi contenuti con belle lettere. Li ascolto meglio e non ne avverto il carattere. Tecniche, vorrei sentire come sei, non come vorresti essere. Metti te stesso dentro i versi. Mi servi contenuti con belle lettere. Li ascolto meglio e non ne avverto il carattere. Tecniche, vorrei sentire come sei, non come vorresti essere. Metti te stesso dentro i versi. Mi servi contenuti con belle lettere. Li ascolto meglio e non ne avverto carattere. Tecniche, vorrei sentire come sei. Metti te stesso dentro i versi. Mi servi contenuti con belle lettere. Li ascolto meglio, non ne avverto il carattere. Tecniche, vorrei sentire come sei. Metti te stesso dentro i versi. Mi servi contenuti con belle lettere. Li ascolto meglio, non ne avverto il carattere. Tecniche, vorrei sentire come sei. Metti te stesso dentro i versi. Mi servi contenuti con belle lettere. Tecniche, vorrei sentire come sei. Metti te stesso dentro i versi.